Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Una puntata speciale del cacciatore di libri dedicata ai gialli. Lo sappiamo, l'estate è la stagione in cui i gialli vanno per la maggiore. È già forse uno dei generi favoriti dagli italiani quando si tratta di acquistare libri in libreria. Però, insomma, d'estate veramente si assiste al trionfo del giallo. E per parlare dei gialli abbiamo qui ospite niente poco di meno che, secondo me, il guru, il massimo esperto di gialli in Italia. Mamma mia, li stai già spaventando presentando. Diciamo il tuo nome. Allora, io sono Luca Crovi e chiacchiererò con Alessandra a 360 gradi sulle novità dell'estate. Novità dell'estate. Ma a proposito, tu che sei espertissimo di gialli, sicuramente molto più di me, perché d'estate il giallo va più che in altri perché periodi? Perché c'è più tempo per leggerli sotto l'ombrellone in vacanza. Vabbè, tenete presente qualsiasi che libro si può leggere sotto l'ombrellone. Sì, però sono libri da viaggio, sono libri che puoi iniziare, abbandonare, che hanno la caratteristica che ti danno sempre una forte emozione. Quindi quando hai bisogno di brividi freddi e fa molto caldo, il giallo è perfetto. Poi tenete presente che già nella tradizione originale, quella inglese, no? Quella di Corpi al sole di Agatha Christie, c'erano già storie ambientate durante le vacanze dei protagonisti, quindi c'era già il giallo che andava in vacanza. Come scenario, insomma. Assassinio sull'Oriente Express in un viaggio che viene fatto. Sotto il sole anche, c'era omicidio Sotto il sole, o Corpi al sole, a seconda di come è intitolato, ma poi ci sono tutte le varie crociere sul Nilo, no? Nel senso che insomma, l'estate è il periodo di è perfetto. Ambientazione. Tenete presente che però curiosamente i gialli sono nati d'inverno, non sono nati d'estate. Allora, i gialli o i neri nacquero con la tradizione inglese, quella di Dickens e di Stevenson, che scrivevano le storie di noir, di fantasmi, di paura e le proponevano ai lettori per Natale. E gli editori inglesi le producevano proprio perché era il periodo in cui si leggeva di più. Ed è curioso che in realtà adesso invece si sostenga che la stagione migliore è quella estiva, però in realtà nascono come intrattenimento invernale intorno al fuoco e quindi in una dimensione fredda, non calda. Ve l'ho detto che Luca Crovi è il massimo esperto di gialli noir in Italia. E tra l'altro, se dico una stupidaggine, assolutamente. Allora, tra l'altro, lui è autore. Adesso non voglio essere blasfema a dire la Bibbia del noir, insomma, però è una guida fondamentale. Si intitola Noir, istruzioni per l'uso. Un atlante del delitto che si legge come un thriller pubblicato da Garzanti. Praticamente in questo libro ci sono curiosità, aneddoti, pezzi di interviste su tutti i maggiori giallisti contemporanei, ma anche morti, lo diciamo, perché è come se avessi fatto delle sedute spiritiche. Incontri a distanza, insomma, Arthur Conan Doyle non avresti potuto intervistarlo sicuramente per un problema di età, diciamo. No, di però sai che età. Lui chiedeva negli spiriti, per cui avrebbe accettato volentieri di fare una seduta nella quale veniva evocato. Lui litigava tra l'altro con Houdini su questa cosa qua, che secondo Houdini gli spiriti non esistevano, lui che cercava di entrare in contatto con sua madre. Il suo amico Doyle invece sosteneva che esisteva questo contatto, tanto che quando scrisse la sua autobiografia, Le Memorie, alla fine della sua vita dedicò pochissimo spazio a Sherlock Holmes, che lui odiava. E lui lo odiava, infatti l'ho appreso dal tuo libro, che lui lo odiava. E tantissimo spazio invece alle sedute spiritiche, che secondo lui erano la cosa più importante della sua vita. E a proposito di Arthur Conan Doyle e soprattutto di Sherlock Holmes, è vero, lui lo odiava, però vi ricordo che a partire da agosto, proprio su Radio 24, trasmetteremo degli audiolibri di Sherlock Holmes prodotti da Full Color Sound e andranno in onda per tutto il mese di agosto, il sabato e la domenica alle 14.30, quindi un appuntamento bello fisso pomeridiano, momento della pennica. Ma che pennica? Non si dorme se c'è Sherlock Holmes in onda. Nel senso, il momento della tranquillità e si ascolta Sherlock Holmes. Senti, posso spaventarli? Sì, posso in qualche modo? Vai. Allora, siccome stiamo parlando d'estate, di vacanze, allora è successo che una casa editrice come Il Saggiatore ha deciso di ripubblicare due classici della letteratura come Psycho e Marnie, che sono stati scritti uno da Robert Bloch e l'altro da Winston Graham. Sono due storie che sono diventate poi film di Hitchcock. Allora, dovete sapere che Hitchcock, quando prendeva i soggetti altrui, e l'ha sempre fatto in tutta la sua storia, li cannibalizzava, quindi li montava, li smontava, li riscriveva a modo suo. Io vorrei che però voi andaste a leggere gli originali, nel senso che sia Psycho che Marnie, pubblicati da Saggiatore, sono due storie bellissime, due storie di psicosi, perché da una parte abbiamo Norman Bates che arriva a identificarsi con sua mamma, insomma lo sapete dal film, Psycho. E che ha le voci interiori. E però tra l'altro hanno fatto il film su Hitchcock, sulla vita di Hitchcock, dove si vede appunto che lui sta leggendo Psycho e sta iniziando a girare il film. Sì, poi c'è anche una cosa divertente, hanno fatto persino un serial televisivo americano che si chiama Bates Motel, che racconta la parte dell'adolescenza di Norman Bates. Sai, ed come è molto il maiale, bello. non si butta niente. Ma a proposito di questa cosa, dovete sapere che Hitchcock cannibalizzava gli altri, ma era particolarmente odiato dagli scrittori, tanto che Patricia Highsmith per anni ha girato nella borsa il contratto di delitto per delitto perché glielo voleva sbattere in faccia. Raymond Chandler ci litigava super ubriaco quando proprio adattava quel classico lì della Highsmith. Ma ci sono autori che avrebbero sognato di essere adattati da Hitchcock, tipo Hemingway gli propose di fare Per chi suona la campana. Hitchcock fece di tutto per non farsi trovare. Com'è divertente che Hitchcock avesse ricevuto la richiesta di adattamento di 007 e non l'avesse voluto fare. Ma la cosa che forse voi non sapete è che Hitchcock, che sosteneva di non saper leggere e di non saper scrivere, almeno una volta nella sua vita ha scritto un raccontino di suspense. E questo raccontino io l'ho messo dentro al mio noir istruzioni per l'uso, si chiama Gas. Allora adesso mi raccomando, se avete molta paura il suggerimento sarebbe di cambiare canale, ma se invece siete persone che hanno i nervi saldi e soprattutto volete provare un po' di tensione, ascoltate questa storia. Una giovane donna si trova sperduta nel quartiere parigino di Montmartre. Intorno a lei una scura coltre di buio. La giovane cammina tra i vicoli costeggiando un lungo muro. Ha paura. Entra finalmente in una casa. Sale le scale. Comincia a intravedere la luce. Si trova nel mezzo di un bar frequentato da una dozzina di ubriachi. Gli uomini si avventano subito su di lei. La vogliono rapinare e forse vogliono abusarne. La donna urla di terrore, i maniaci la legano e dopo averla buttata nel fiume aspettano sulla riva per vederla divorare dai topi. La donna sprofonda nell'acqua e comincia ad ondolare, si sente soffocare. Poi una mano la scuote e sente finalmente la voce amica del dentista che dopo averla svegliata le dice: «Tutto fatto, signora, mezza corona, prego». Allora, la suspense e l'ironia hanno sempre fatto parte della vita di Hitchcock. Ovviamente, quando ce l'avevate davanti, lui faceva delle grandi battute. Era simpatico, ma poteva anche spaventarvi, poteva tirarvi addosso gli uccelli, come successe alla povera protagonista dell'omonimo. Non ci voglio neanche pensare, perché è stato uno dei miei incubi dell'infanzia. Tornando invece prettamente ai libri, visto che stavamo parlando di classici, Simenon, Georges Simenon, ne ha scritti credo 75 di Maigret, se non ricordo male, che vengono pubblicati in Italia da Adelphi, e Adelphi negli ultimi periodi sta pubblicando, come dire, dei volumi compatti dove raccoglie una serie di romanzi Maigret. È da poco uscito il quarto volume, che comprende Il pazzo di Bergerac, Liberty Bar, La chiusa numero 1, Maigret e I sotterranei del Majestic, questi pubblicati da Adelphi appunto. Qualche tempo fa, come del resto aveva fatto anche Luca Crovi, si legge in questo tuo Atlante del Noir, avevo incontrato uno dei figli di Simenon, John Simenon, e gli avevo chiesto che rapporto aveva il padre George con Maigret. Insomma, si sentiva un po' in gabbia o era il suo punto di forza, odio o amore? Les deux, vous savez, il y a aucun amour absolu, il y a aucune haine absolue non plus, donc entrambe le cose. Credo che non ci sia né amore assoluto né odio. Credo che mio padre provasse del vero affetto per Maigret e credo che lo ritrovasse regolarmente ogni anno con molto piacere. Era una specie di ricreazione, e stiamo parlando degli anni 50-60. Allo stesso tempo, però, è certo che non poteva non provare una certa frustrazione, perché Maigret era un personaggio piuttosto ingombrante nella sua vita. Il ne pouvait pas ne pas y avoir une certaine frustration parce que Maigret était dans la vie de mon père quand même un peu encombrant. Lei ora cura l'opera di suo padre. Secondo lei perché è uno scrittore così amato e ha così tanto successo? Che cosa piace? Mais moi je sais pas. Mais je sais pourquoi moi j'aime les romans de mon père. Parce que non so dare una spiegazione in assoluto. A me i romanzi di mio padre piacciono perché mi aiutano a trovare me stesso e ad accettarmi, a vivere in pace con me stesso, almeno in parte. Credo che in tutti i romanzi di mio padre si possa sentire un'angoscia che tocca tutti quanti noi. Une question, une angoisse qui nous touche tous. Simenon è stato sicuramente uno scrittore molto prolifico, molto frenetico, dicono in molti. Quali erano i momenti della giornata in cui scriveva? Come si approcciava alla scrittura? Alors, il a changé au cours des années. Il y a eu des années quand il était jeune où il écrivait à 4 heures du matin. Credo che mio padre abbia cambiato rito di scrittura nel corso della sua vita. In un periodo della sua vita in cui non ha potuto conoscerlo, quando era molto giovane. Lo immagino dopo notti di bagordi che si metteva a scrivere alle 4 del mattino, con una bottiglia di vino sul tavolo, scavalcando i corpi di gente che dormiva sul pavimento dopo una notte di follia. L'uomo che ho conosciuto io era molto più organizzato e regolare. Si svegliava molto presto, entrava nel suo ufficio intorno alle 6:30 del mattino, prima che chiunque altro si svegliasse, e scriveva fino alle 10:30-11. Questo per quanto riguarda la scrittura dei capitoli a mano. Il pomeriggio, dopo essersi riposato, dedicava 2 ore, 2 ore e mezza per battere a macchina quello che aveva scritto. Per i Maigret era diverso. Scriveva direttamente a macchina e gli bastava mezza giornata. Per i Maigret, non faceva che tapare alla macchina. A ce momento-là, il lavorava una demi-journée solamente pendant una demi-journée. E questo era John Simenon, uno dei figli di Georges Simenon, lo scrittore belga. Insomma, è un classicone di qualsiasi periodo. Chi ama il giallo, chi ama il poliziesco, un Maigret va letto. Ah no, anche più di uno. Anche uno. E io devo essere onesto, io amo molto anche i romanzi duri, cioè quelli che non hanno per protagonista Maigret, tipo l'uomo che vedeva passare i treni, insomma, quelle storie che lui ha scritto ambientate nella provincia francese e che avevano un ritratto provinciale particolarmente oscuro. Stavamo parlando di Simenon perché in questo noir, Istruzioni per l'uso, ci sono anche vari aneddoti che riguardano Simenon. Sì, io parlo di come lui arrivò a costruire il personaggio di Maigret, il fatto che Simenon buttò via un sacco di personaggi, tipo l'ispettore Sunset, e ognuno di questi personaggi che lui non utilizzò fu la prova praticamente per creare Maigret. Ma visto che avete ascoltato John Simenon, che io ho intervistato qualche anno fa, la cosa divertente è che Simenon si è occupato di figlio di produzioni cinematografiche, è stato l'uomo che ha lanciato in Francia Guerre Stellari. Quindi quando è arrivato ad occuparsi di suo padre, in realtà non aveva solamente il suo bagaglio personale, ma aveva anche quello del padre da mescolare. E la cosa divertente che vi posso raccontare è che il mio babbo fu l'uomo che fece rifirmare in Mondadori il contratto con Simenon. Simenon per lunghi anni aveva avuto un contratto con Mondadori, ma finita la guerra decisero di firmare un nuovo contratto. Venne a Milano e lui voleva conoscere tutta la troupe dell'adattamento del Maigret. L'uomo che poi lo portò in giro a vedere la troupe era Andrea Camilleri. L'uomo che accompagnò sui navigli Simenon a Milano invece fu mio padre, perché la prima richiesta che fece lui è se poteva andare sui navigli. Ovviamente sui navigli a Milano in quel periodo c'erano ancora i casini aperti, e però quel giorno c'era la coda. E l'unica cosa che potettero fare mio padre e Simenon, in attesa che Simenon varcasse quella porta dove stavano le signorine, fu giocare a scopone. E è molto bello pensare a questa cosa del giocare a carte in attesa, perché le carte, l'attesa, le donne, i navigli, il mare, la Senna, sono delle cose che ritornano che poi tornano nella narrativa di Simenon. A proposito di personaggi seriali, Maigret è un personaggio ovviamente seriale, vediamo sulle novità di quest'estate che personaggi seriali possiamo trovare. Per esempio, è tornato il commissario Bordelli di Marco Vichi. Marco Vichi è un noirista toscano e si è inventato questo personaggio del commissario Bordelli nel 2002, insomma, scrivendo il suo primo poliziesco ambientato nella Firenze degli anni 60. Anche in quest'ultimo, che si intitola Fantasmi del passato, un'indagine del commissario Bordelli pubblicato da Guanda, siamo nel 67, l'alluvione di Firenze, e il commissario Bordelli naturalmente dovrà indagare su è vicenda. Un periodo particolare per Bordelli, perché l'alluvione c'è appena stata, la città è disastrata, ma lui soprattutto ha sulla coscienza 3 omicidi, nel senso che per punire praticamente l'omicidio di un ragazzino che in nessun modo lui riusciva a punire, cioè non riusciva a catturare i colpevoli, a portarli davanti alla giustizia, nei 2 precedenti romanzi Bordelli si è sporcato le mani. I lettori di Bordelli sanno che Bordelli è un ex militare che ha fatto parte della San Marco, è stato un partigiano, è un poliziotto che più che parlare con le persone per bene parla con le prostitute, con i criminali, perché quel lato lì della realtà è quello che lo affascina di più, è quello che vede più vicino alla sua sensibilità. In quest'ultimo romanzo di Vichi, Bordelli ha paura di quello che ha fatto e vive il senso di colpa di quello che è successo. Un senso di colpa che è molto vicino a quello che vivono gli eroi di certi romanzi di Durenmatt, quindi il sospetto, il giudice e il suo boia. E è volontario da parte di Vicky entrare in un noir non rassicurante, perché spiega quanto il protagonista abbia un passato ma anche un presente problematico. A cercare di risvegliarlo nelle prime pagine da questa sorta di incubo di colpevolezza è la madre. È la madre che gli va incontro, che da una parte gli fa pensare a quello che lui ha fatto e dall'altra lo fa pensare al suo passato. E spesso questo narratore italiano ha utilizzato i ricordi di suo padre della Resistenza, per dire della guerra, e i ricordi di sua madre trasformati in poesia in questo romanzo. Quindi realtà e finzione si mettono all'interno di una storia noir dove lui è persino riuscito a farsi aiutare da un altro scrittore, sì, infatti, che è Leonardo Gori, che gli ha prestato un suo personaggio che all'interno della storia vive una situazione spionistica. Bellissima questa cosa. Questo è appunto Marco Vicky, Fantasmi del passato, pubblicato da Guanda. Hai definito prima, insomma, hai dato le caratteristiche del commissario Bordelli. Ogni volta io mi domando perché i personaggi seriali, i commissari, gli investigatori, il maresciallo dei carabinieri sono sempre persone tormentate, sciatte a volte, hanno sempre dei passati un poco limpidi, hanno delle vite sentimentali sempre disastrate naturalmente, e questa è una domanda che ho fatto per esempio a Maurizio De Giovanni. Maurizio De Giovanni è autore di diversi libri con il personaggio seriale del commissario Ricciardi, è da poco uscito sempre per Einaudi In fondo al tuo cuore, Inferno per il commissario Ricciardi di Maurizio De Giovanni appunto, e quando ci siamo incontrati gli ho chiesto, ma insomma, perché appunto questi investigatori sono sempre così tormentati? Sentiamolo. È vero, potrebbe essere anche questo marchio. Non è così del tutto. Ci sono degli investigatori assolutamente simpatici, brillanti, ironici, e penso che al Ferraro di Biondillo, ai personaggi di Sandrone D'Azieri. Ci sono certo altri, ma tutti gli uomini hanno dei problemi. Tutte le persone nella loro quotidianità hanno delle sofferenze. Quindi i poliziotti, che sono uomini, non si sottraggono a questo destino. E spesso il tormento, il dolore di avere a che fare col male dalla mattina alla sera si espande e infetta tutto il resto dell'esistenza. È quello che succede ad alcuni personaggi e ai miei specificamente. Maurizio De Giovanni citava Sandrone D'Azieri, che è un grandissimo noirista italiano, che abbiamo tra l'altro è da pochissimo uscito il suo nuovo romanzo Uccidi il padre, pubblicato da Mondadori, insomma un bel tomo consistente. Beh, un libro in cui lui ha cambiato anche genere, non c'è più il gorilla, che aveva quelle atmosfere un po' buffe, strane, strampalate, tosto, che citava prima De Giovanni. Questo invece è un thriller con un alto tasso d'angoscia, una storia di rapimento da una parte e con due protagonisti, visto che tu citavi i poliziotti tormentati, che sono tormentati. Su questa cosa del tormento dei protagonisti, sicuramente il Ricciardi di Giovanni è esemplare, perché sente la voce dei morti, cioè sente le ultime parole che un morto ha detto prima di morire. E dall'altra parte, io che ho frequentato spesso poliziotti, ti posso dire che molte di queste persone hanno dei passati personali molto dolorosi. Quindi è vero, insomma, non è un'invenzione. Sì, anche perché mettiti nei panni loro quando loro sanno che uno è colpevole e per problemi legali non lo possono incastrare. Rischi di andare in crisi, rischi di impazzire come il protagonista della Promessa di Durenmatt, tanto per farti un esempio. Poi una vita familiare con un poliziotto è molto difficile per gli orari, per la convivenza. Come con i medici e con i giornalisti, insomma, si dice sempre che abbiamo delle vite è disastrate. Vero. Infatti tutte queste categorie sono categorie che vivono quella sofferenza. Per esempio io, che sono sposato con un medico, dico che sono un marito molto paziente. E hai anche quattro figli, diciamolo. Sì. Ma paziente nel senso di paziente allettato. Sandrone D'Azieri, secondo te, dicevi che appunto ha cambiato un po' il genere di scrittura, anche perché non ha usato l'ironia. Molto il cinema e la televisione in questo libro. Ci sono molte sequenze di montaggio, si vede che ha lavorato per delle serie come Distretto di Polizia e che si è occupato di sceneggiatura, e questa cosa viene fuori in questo libro. È come aver trovato una nuova anima, e credo che sia piaciuto molto a Sandrone tirarla fuori in una nuova storia. I lettori gli stanno dando ragione, assolutamente. Tra l'altro, in una delle prossime puntate del Cacciatore di Libri avremo appunto ospite qui in studio a Radio 24 Sandrone D'Azieri su Uccidi il padre, pubblicato da Mondadori. Allora, altri personaggi seriali, anzi in realtà non è seriale, perché uno dei romanzi, insomma, che è arrivato quasi subito in classifica è questo piccolo romanzo o racconto lungo, definiamolo così, di Gianrico Carofiglio, Una mutevole verità, pubblicato da Einaudi. In genere, insomma, Carofiglio scrive varie cose, scrive romanzi, ha scritto alcuni romanzi con protagonista l'avvocato Guerrieri, e di questo suo ultimo romanzo, Una mutevole verità, lui dice: spesso dicono che scrivo gialli, ma io non mi sono mai davvero riconosciuto in questa definizione, però questa è la cosa più vicina ad un poliziesco classico che abbia mai scritto. Difatti potrebbe essere una storia di Ed McBain, per darvi un'idea, cioè nel senso che lui ha usato lo stesso schema delle storie di McBain raccontando un gruppo di persone che indagano, che in questo caso sono dei carabinieri. Tenete presente che questo libro, come Albergo Italia, pubblicato da Einaudi, che ha scritto Carlo Lucarelli, sono due libri che sono stati fatti per il centenario dell'arma e che adesso Einaudi ha ripubblicato, ma che hanno la caratteristica di voler raccontare quindi un omaggio ai carabinieri, sì, insomma, sì, il mondo dei carabinieri. Tra l'altro il protagonista del libro di Carofiglio è la prima volta che appare, sì, mentre invece i protagonisti di Albergo Italia di Carlo Lucarelli qualcuno li aveva già trovati dentro l'Ottava Vibrazione, che avevano la stessa situazione di ambientazione in Eritrea, e curiosamente il protagonista del romanzo Albergo Italia di Carlo Lucarelli porta il nome di un altro noirista, nel senso che si chiama Colaprico e non è un caso. Io posso dirvi che andate prossimamente a cercare il prossimo racconto o romanzo che firmerà Colaprico, perché secondo me ci spedirà Lucarelli da qualche parte. No, è bellissimo, cioè abbiamo visto prima Vicky che prende in prestito un personaggio da Leonardo Gori, gentilmente offerto da. Adesso c'è questo gioco fra Carlo Lucarelli e Piero Colaprico. Beh, ma tra Carlo Lucarelli c'era stato anche con Camilleri, si erano scambiati Cogliandro, ma anche Grazia Negro e contemporaneamente Montalbano. Sono tutti amici. Che appaiono in un'unica storia che si chiama Acqua in bocca. Sì, è vero, me la ricordo, ne avevamo parlato anche a Radio 24. Però è vero che i noiristi tendono a essere più amici fra gli scrittori, sì, molto, rispetto agli altri scrittori. Sono molto famiglia. Cioè, molto nel senso che si seguono anche agli esordi. La cosa molto bella degli autori di genere è che tendono a leggere tutto quello che esce e, se possono, sono i primi presentatori e i primi promotori degli autori nuovi. Non c'è una barriera del tipo mi porti via spazio, anzi più spazio c'è per questa famiglia nera e più riusciamo a inserire anche voci diverse. Adesso altre segnalazioni così rapide su questi gialli dell'estate. Per esempio c'è il classico volume che esce per Sellerio, Vacanze in giallo. Ci sono la Jimenez Bartlett, Marco Malvaldi, Manzini, Recami, Robecchi, Gaetano, Sabatteri. Insomma, è un putpourri, è un insieme di racconti di alcuni noiristi, anche con stili molto diversi questi. Ma poi ormai è una tradizione di Sellerio. Il, sì, Capodanno, il Capodanno, il Carnevale, il Natale, ormai viene siglato da un'antologia che mette insieme narratori diversi che utilizzano i loro personaggi anche nelle situazioni dei racconti. È molto divertente anche costruire una storia apposta per le antologie, perché crea da una parte una barriera allo scrittore dentro la quale deve stare seguire, e dall'altra invece gli dà la possibilità di dare una voce nuova al proprio personaggio. Assolutamente. Altri gialli che mi sento di segnalare per quest'estate, un giallo che non è un giallo insolito, Davide Longo, Il caso Bramard, pubblicato da Feltrinelli. È un romanzo scritto bene, scritto benissimo. Secondo me il protagonista è un uomo che in passato era stato commissario, aveva seguito la storia di un serial killer che secondo lui aveva ucciso la moglie e la figlia, poi a un certo punto si era ritirato in montagna, aveva deciso di fare l'insegnante e poi insomma succedono una serie di cose. Tu che ne pensi di questo insolito giallo di Davide Longo? Secondo te può essere definito allora, giallo? Sicuramente o no? Per come l'ha costruito sarà un seriale. Ti dico che secondo me ci ricadrà, nel senso che ha creato un personaggio molto originale, perché questo personaggio ha un rapporto con la montagna speciale. Non è facile trovare personaggi che fanno la scalata, che si arrampicano, che vanno nei rifugi, che trovano dei luoghi anche di meditazione speciali, quindi lo rende una voce nuova da quel punto di vista, ed è un personaggio che probabilmente lui svilupperà in altre storie, perché qua lui ci mostra dei chiaroscuri del passato ma non ci racconta tutto, quindi si è lasciato delle porte aperte. aperte, dentro alle quali lui può costruire ulteriormente il suo personaggio. Ho ragione a dire che Luca Crovi è un'enciclopedia del giallo, del noir, del thriller. Io starei ore ad ascoltarlo. Purtroppo il tempo è sostanzialmente finito, però vi prometto che inviterò di nuovo qui al Cacciatore di Libri Luca Crovi per parlare di altri gialli, di altri thriller, del noir, anche di cose un po' storiche, perché lui sa un sacco di curiosità. Agatha Christie, per esempio, che scriveva nella vasca da bagno, l'ho imparato leggendo il suo noir Istruzioni per l'uso. Per quest'estate altri gialli così, segnalazioni flash. La sposa silenziosa, che è stato scritto da questa scrittrice che purtroppo è morta, ha scritto un solo libro e purtroppo non c'è più questa scrittrice. Asa Harrison, scrittrice americana, il romanzo è pubblicato in Italia da Longanesi. C'è una donna che è una psicoterapeuta che però ha rinunciato alla sua vita per il marito, e il marito Todd è un uomo d'affari avido ed egocentrico e insomma a un certo punto ci sarà una vendetta da compiere. E a proposito di vendetta, vi segnalo anche un altro giallo, Walter Cantoni, L'inutilità della lettera Q. Anche in questo caso la vendetta ha un certo peso. Grazie allora a Luca Crovi per essere stato con noi, per averci illuminato un po'. Insomma, come assassino cercherò di tornare di nuovo sul luogo del delitto. Devi assolutamente tornare, questa è una promessa, perché ho tantissime domande da farti, tantissime curiosità da scoprire, credo anche i nostri ascoltatori. Grazie per l'ascolto anche per oggi, in regia Paolo Corleoni. Come sempre trovate questa puntata anche per prendere appunti su tutti i romanzi che abbiamo segnalato su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.